Ave Maria, ragazzi e ragazze carissimi, a tutti e ben ritrovati sulle frequenze di radio. Buon consiglio. Scusate che purtroppo sto un po' influenzato. Ecco, chi vi parla, come sempre, è Don Leonardo Pompei. Siamo insieme per una nuova puntata di Spazio Giovane. Sperando che riesco a dire due parole una appresso all'altro, e oggi ci attende l'inizio dell'analisi del sesto comandamento, che la volta scorsa, se vi ricordate, abbiamo cominciato a introdurre, e in particolare, scusate, cercando di cogliere la differenza che intercorre tra termini a volte usati e magari come sinonima, che esattamente non significano esattamente la stessa cosa. Se vi ricordate, abbiamo parlato di castità, di verginità e di continenza, ricordando, diciamo, le differenze tra queste virtù, e tenendo presente che ci muoviamo dentro il genere, ecco, dell'aurea virtù, così la chiamavano i santi, della purezza, dentro la beatitudine evangelica che Gesù molto opportunamente, ovviamente, definisce come beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Chiaramente un puro di cuore è anche un puro di occhi, è un puro di atti, è un puro di parole. Ecco, quello che ho appena detto ci fa innanzitutto comprendere una cosa molto importante, che è la seguente: che la purezza è virtù che inizia dal cuore, ecco, cioè dal cuore, cioè dal profondo, dal centro, e da cui parte e verso cui converge l'identità profonda della nostra personalità. Bisogna dire una preghiera perché purtroppo mi sono raffreddato e se andiamo avanti così non riesco a fare un discorso di senso compiuto senza interloquire con dei fastidiosissimi, per me, ma penso anche per voi, colpi di tosse. Speriamo che la Madonna ci metta presto le mani. Appunto. Dunque, vediamo se riesco a riprendere. E dicevo che la purezza è virtù che parte dal cuore, inteso il cuore come centro profondo, e da cui si diparte ciò che la nostra personalità è, ma anche in cui convergono, diciamo così, tutti quanti i nostri pensieri, i nostri desideri, le nostre profonde intenzioni, i nostri fini profondi, no? Quindi questo per far comprendere. E sul cuore, chiaramente esercita un potere forte, anche nonostante la colpa d'origine, la nostra volontà. Quindi quando Gesù dice beati puri di cuore, il nostro cuore purtroppo non lo sappiamo benissimo, non è puro, né, come dire, in senso proprio, nel senso che è libero da cattive tendenze proprio contro la virtù della purezza, ovvero contro i peccati rientranti nella categoria del sesto comandamento, sia anche in modo ancora più generale, no? Vi ricordate che in un altro Vangelo Gesù dice che dal cuore dell'uomo escono tutte le intenzioni cattive e sono quelle che contaminano l'uomo. Comincia, non parla soltanto di cose impure, no? E bestemmie, furti, superbia, stoltezza, insieme alle classiche cose contro il sesto comandamento, no? Quindi il nostro cuore, lo sappiamo dalla dottrina della Chiesa, e a causa della colpa d'origine non è proprio un capolavoro di purezza. Chiedo alla regia se mi sentono bene, perché io ho dei disturbi non indifferenti nel telefono, quindi non so se mi sentono bene e se mi sentite bene. Poco. Tutto a posto? Ok, perché ho dei disturbi non indifferenti. Non mi stupisce, insomma, però vado avanti. Quindi se ci sono problemi, fatemelo gentilmente sapere. Quindi il nostro cuore, noi sappiamo dalla dottrina della Chiesa che non è purtroppo puro, proprio a causa della colpa d'origine, ma sappiamo anche che siamo stati realmente redenti da Cristo e quindi, come con la nostra volontà sostenuta dalla grazia possiamo intervenire, ecco, correggendo le nostre cattive inclinazioni fin sul nascere. Ecco, perché è ovvio che se il nostro cuore è lasciato allo stato brado e quindi è impuro, è impossibile, ecco, che la nostra persona sia pura. Vi dicevo che con quell'espressione che prima ho utilizzato esce subito fuori le quattro modalità. Io lo insegno al catechismo dei ragazzi con cui si può peccare contro questo comandamento, perché si pecca innanzitutto col pensiero, lo vedremo poi particolarmente parlando del nono, perché il motore dei peccati impuri sono i pensieri, ma l'alimento dei pensieri impuri sono gli sguardi, gli occhi. Quindi si pecca col pensiero e con gli occhi, si pecca anche con le parole. Ecco, questa è una cosa che magari molte volte non ci si fa troppo caso, no? Quindi parlare di cose che non si devono, fare discorsi, come si dice, osceni, oppure capita. Spero che voi siate tutti bravi e santi, insomma, però a volte tra alcuni adolescenti e anche adolescenti femminucce, ahimè, ci si confronta e si mettono un pochettino a confronto conquiste, avventure non del tutto proprio edificanti, senza magari pensare che già fare volontariamente un discorso spinto in questo senso, chiaramente non è tratta di dire quella ragazza è caruccia, questo si può ovviamente dire, insomma, perché altrimenti non si potrebbe parlare, però fare discorsi un po' troppo espliciti, ecco, e su questo punto costituisce già di per sé stesso peccato mortale. E poi si becca con gli atti, quindi, cioè, una persona che è impura, quindi che ha il vizio capitale della lussuria, certamente quando si converte la prima cosa che dovrà fare dovrà cercare di imparare a controllare le proprie pulsioni, quindi non lasciarle allo stato brado. Però sicuramente dovrà anche verificare se e quanto il suo cuore non va, perché come in tutte le dimensioni della nostra vita interiore dobbiamo sempre andare alla radice del problema per affrontarlo, altrimenti si compiono degli sforzi immani e non si guarisce. Questo vale per tutti i tipi di problematiche, no? Comprese quelle di cui poi più avanti parleremo, vi accenno soltanto qualcosa, quelle che danno luogo a dei comportamenti di tipo omosessuale. Questo per farvi comprendere già in come dire, nelle classificazioni scientifiche fatte dalle persone che non sono di parte, perché purtroppo ci sono alcuni sedicenti, insomma, esperti in scienze umane che oggi negano anche l'evidenza, ma non lo fanno sulla base di ragioni scientifiche, ma la fanno sulla base di scelte e preconcetti di tipo ideologici, perché loro vogliono già dimostrare, cioè loro danno per scontato ciò che è tutto da dimostrare, cioè che questo comportamento sia una variante assolutamente normale dell'essere umano. Ecco, quindi. Però, come dire, si distingue, per esempio, in letteratura, io ricordo quando studiavo queste cose anche sotto un profilo psicologico, anche perché c'è un grande psicologo psichiatra cattolico americano che è Joseph Nicolosi, vi consiglio la lettura di libri, che ha veramente fatto un'opera enorme, cioè se uno legge in inglese fino a qualche tempo fa, adesso è un po' di tempo, insomma, che non controllo, i libri hanno una decina d'anni, insomma, i suoi, quelli che ho io sono un po' datati, ma penso che siano stati comunque ristampati. Se uno andava sul suo sito, leggendo in inglese, che è www.peoplecanchange.com, leggeva decine di testimonianze di persone già omosessuali, quindi sia al maschile che al femminile, che si erano sposati, avevano fatto figli e avevano una vita, come dire, sessuale tranquillamente recuperata, con soluzione totale del problema. Ecco, cioè nel senso che, questo per dirvi, per accennare un'altra piccola differenza sostanziale, no? Quindi tra elemento materiale di questi peccati e invece elemento più profondo è quello spirituale, cioè vi dicevo che si distingue in letteratura tra omosessualità e omogenitalità. Che differenza ci sta? lo dice già il termine, no? Che l'omosessuale, proprio l'omosessuale vero, non è semplicemente una persona che cerca semplicemente di fare sesso, perdonatemi il termine, con persone dello stesso sesso, ma è una persona che si innamora. Quindi, cioè, che tende a imbastire, ad intrattenere con la persona dello stesso sesso un rapporto analogo a quello che è un rapporto d'amore tra persone di sesso diverso. Quindi non è semplicemente un fatto pulsionale o come dire, un soddisfacimento alternativo di propri istinti. No, questi proprio innamorano. E questi sono i casi, diciamo, più difficili, tra virgolette, no? Anche da un punto di vista poi di terapia, come la chiama Joseph Nicolosi, ricostitutiva. Ecco. Invece l'omogenitale è semplicemente una persona che è attratta dal compimento di atti sessuali con persone dello stesso sesso, cosa che può andare d'accordo perfettamente, per esempio, anche con la cosiddetta bisessualità, capite? Proprio perché non c'è un problema di coinvolgimento affettivo, è soltanto un fatto fisico brutale di pulsionalità materiale. Chiaramente, se sotto certi punti di vista questo tipo di comportamento è più disdicevole perché è più brutale, più animalesco, sotto altri punti di vista è più facile uscirne fuori. Ecco perché, capite, è, come dire, è malato il corpo, tra virgolette, non è malata però l'anima, quindi non c'è un problema appunto, di tendenze che nascono dal di dentro. Era un fatto analogico. La stessa cosa vale per quanto riguarda il peccato impuro. Ecco, cioè un conto è un incidente compiuto materialmente senza coinvolgimento della persona, un conto è la persona che è impura perché è impura dal profondo del cuore, quindi può, come dire, essere realmente catalogata come schiava del vizio capitale della lussuria, e lì ci vuole un po' di tempo e un bel cammino per uscirne fuori. Allora, cominciamo quindi la trattazione di merito, ecco, facendo un'altra piccola considerazione. Prima di addentrarci, ovviamente, vedremo, noi dobbiamo anche conoscere quali sono i peccati impuri, perché oggi, come ho avuto modo di dire in qualche mia pubblica uscita recente, specialmente la settimana scorsa in terra d'Umbria, dove ero stato chiamato appunto a fare un discorso, insomma, una catechesi, una relazione, chiamatela come volete, sul rapporto tra il demonio e l'eresie. A mio parere, l'eresia contemporanea è ben sintetizzata da un libretto scritto da un intellettuale tedesco che si chiama Martin Mosebach. Il titolo del libretto è L'eresia dell'informe, l'informe, cioè una cosa senza forma. Cioè oggi la più grossa eresia è proprio come dire, il qualunquismo, il pressappochismo, cioè l'etereo, il confuso, l'indistinto. D'accordo? Tu vai in confessionale, bisogna vivere la purezza. Ma sì, ma che cos'è la purezza? Cioè, che cosa tu devi fare, quali peccati non devi fare per poter dire che tu vivi la purezza? Perché se tu chiedi a un giovanotto: tu vivi la purezza? Questo ti risponde quasi sempre di sì. Poi bisogna vedere se scendi nei particolari, se realmente questa persona vive o non vive la virtù della purezza, cioè se evita quegli atti, che sono appunto gli atti impuri, che sono contrari a questa virtù. Chi ha un pochino di esperienza di confessionale si accorgerà che così, ahimè, nella stragrande maggioranza dei casi non è. E che molte volte c'è un problema di carenza di formazione, cioè al di là di alcune cose grosse e macroscopiche, cioè se voi andate a chiedere in giro anche all'opinione pubblica: secondo te lo stupro è peccato? Tutti ti diranno di sì, ecco, ovviamente no, perché è una cosa abbastanza chiara, evidente. Ma se tu fai la stessa domanda e se la ragazza è consenziente, e se tutti e due sono consenzienti, peccato unirsi sessualmente senza che ci sia la benedizione di Dio sancita dal vincolo del matrimonio, provate a fare questa domanda in giro. Eppure la risposta Questa è una cosa che più o meno si sa, quindi non dirò una novità anticipando nulla. Nell'insegnamento di Gesù trasmesso dalla Chiesa è certamente che è peccato, non solo che è peccato grave, è peccato mortale, che ha come nome tecnico quello di fornicazione, come vedremo quando poi giungeremo a parlarne. Comunque, quindi è importante che dall'esito di queste conversazioni noi abbiamo, come dire, un quadro per saper condurre la nostra coscienza e le nostre libere scelte, quindi per sapere quali sono i paletti che non si possono varcare senza violare la legge di Dio. Però, onde evitare di dare, come dire, adito a quelle manifestazioni che sono state molto diffuse alla fine degli anni 60, cioè vietato, vietare o cose di questo genere, bisogna anche comprendere come, questo vale in tutti i comandamenti, io sto cercando di farlo per tutti i comandamenti, chiaramente non so se ci riesco, comunque questo è il mio intento. Dietro le proibizioni, i divieti, quindi le cose che non si possono fare, numero uno c'è sempre una motivazione e numero due c'è sempre un bene che deve essere tutelato, cioè divieti e proibizioni stanno in rapporto di mezzo a fine verso un valore che da questi divieti e proibizioni è tutelato, cioè che se tu infrangi quei divieti e quelle proibizioni non è soltanto una cosa formale, d'accordo? Hai fatto peccato e ti confessi, ma ti privi della possibilità di vivere la bellezza di quel valore in maniera felice e in maniera santa. Ora, uno dei più bei misteri della vita terrena è il mistero dell'amore umano, penso. Cioè, non c'è bisogno di essere grandi filosofi. Se voi vi leggete gli scritti già dei filosofi pagani, tipo Aristotele, penso che molti dei miei ascoltatori, facendo il liceo, sperando che almeno qualcosa la facciano ancora fare, sappiano chi è Aristotele, insomma. E se andate a leggere l'Etica di Aristotele, quando Aristotele nell'introduzione alla sua etica dice bene, e cosa so che l'etica sono le norme che regolano la condotta dell'uomo. A cosa servono le norme che regolano la condotta dell'uomo? A garantirgli una cosa che ogni uomo cerca, cioè la felicità. E penso che la maggior parte delle persone che gli andassero a chiedere: ma che cosa è essere felice? Secondo te, tu ti riconosci in questa definizione, diciamo, forse un po' semplicistica di felicità, però che ti propongo in questi termini: tu sei felice se ti senti amato e sei felice se riesci ad amare le persone tenendo lontano da te i sentimenti di odio, invidia, rivalità, eccetera, eccetera. Quindi essere amato e riconosciuto per quello che sei, estimato per quello che sei, ed essere capace di amare il prossimo e di stimare il prossimo per quello che è. Ti riconosci in questo? Penso che la maggior parte delle persone, insomma, che siano oneste intellettualmente, dovrebbe dare assenso e risposta positiva. Ora, in particolare, l'amore umano è qualcosa di molto bello. Io sono felicissimo, ho detto tante volte, di essere prete, sono stato prima di essere prete fidanzato, perché non pensavo di fare il prete nella mia vita, sono fidanzato per ben 7 anni. Quando ripenso al fidanzamento, non ho, come dire, nessuna, come dire, nostalgia oppure desiderio di tornare indietro, il che sarebbe molto grave, insomma, se fosse una cosa di questo genere. Non perché quello non è bello, ma perché fare il prete e avere la vocazione è più bello. Ecco, invece, quando io ripenso a questo, ci ripenso come una realtà bella della vita, che ha una sua grande bellezza, cioè quando io vedo una famiglia felice, dove marito e moglie si stimano, si amano, dove c'è una famiglia numerosa con dei figli, dove c'è la capacità di mettere Dio al primo posto, cioè sono cose belle queste qui, non è che sono cose brutte, sono cose molto belle. Ecco, viceversa è cosa molto brutta quando si vedono realtà di famiglie sfasciate, distrutte, di, come dire, vite precocemente sciupate, di verginità precocemente violate o cose di questo genere. Sono delle cose, adesso, a prescindere dalla loro qualificazione morale, in se stesse brutte. Ecco. Allora, noi dobbiamo subito renderci conto che questa parola oltremodo inflazionata, cioè l'amore, che tutti vogliamo, in qualche modo cerchiamo, verso cui ci sentiamo irresistibilmente attratti, ma sovente ne constatiamo l'assenza o la scomparsa, ecco, non è cosa che si improvvisa. Ecco. C'è stato anche uno scrittore, diciamo così, laico, Eric Fromm, che ha scritto un libro che si chiama L'arte di amare. Adesso, a prescindere dal contenuto di quel libro, c'è qualcosa di vero in questo, no? Ma anche nostro Signore, prima ancora di andare a chiedere qualche prestito a qualche mente pagana, ha comandato l'amore, no? Qual è il primo comandamento? Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, il secondo, amerai il prossimo tuo come te stesso. Lettera di San Paolo: voi mariti amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa. Quindi, se l'amore si può comandare, vuol dire che l'amore è qualcosa che si può imparare. Quindi, già questo ci fa comprendere che altro è il sentimento dell'innamoramento. Anche qui, altro testo di Erich Fromm, credo che sia lui, non mi ricordo se era lui o Alberoni. Adesso, ragazzi, ecco, comunque esiste un testo, credo che sia Fromm. Però non ci mettete la mano sul fuoco, che si chiama Innamoramento e Amore, dove opportunamente viene proprio posta in luce la differenza che c'è tra questi due fenomeni, perché innamorarsi è un fatto emotivo e sentimentale, completamente irrazionale, d'accordo? E in quanto tale instabile e volubile, cioè io oggi mi sono innamorato di Tizio, ma domani, senza che capisca come e perché, questo sentimento può scemare, può svanire, può scomparire e può ricomparire altrove. Sapete quante volte capita un sacerdote di vedere matrimoni in crisi? Si parla con la coppia e uno dei due ti dice: io mi sono innamorato di un altro. E allora? Che vogliamo fare? E se un consacrato si innamora, che cosa dovrebbe fare? Cioè, l'innamoramento deve essere la legge da seguire sempre, dovunque e comunque, quindi un sentimento così va assecondato oppure è impossibile non assecondarlo? Ecco, capite che è un'altra cosa, no? Quando ci si sposa in chiesa, penso che abbiate tutti quanti assistito a un matrimonio, io prendo te come mio sposa, oppure nel nuovo rito del matrimonio, al posto di prendo, cioè accolgo te, va bene. Poi si continua: prometto di esserti fedele sempre nella gioia e prometto di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Quindi l'amore è oggetto di una promessa, quindi non è semplicemente un sentimento, no? Ecco, il Papa Benedetto XVI, nella sua prima enciclica, lui ha scritto poco, Deus Caritas Est, un'enciclica chiaramente come tutti i documenti pontifici, poi specialmente lui che era un teologo, non alla portata di tutti, quindi per certi aspetti un po' difficilotta, ha spiegato molto bene la differenza che c'è tra l'amore dell'innamoramento, ecco, che in termini tecnici si chiama amore erotico, e l'amore invece come scelta di volontà, che parte da un io e va un tu, che è quello che i cristiani chiamano l'amore agapico. È un'altra cosa, no? Tenete presente che io scherzo sempre con gli adolescenti, l'ho detto anche in altri interventi, perché da adolescenti si dicono un sacco di bugie, no? Cioè, sapete che l'adolescente è, come dire, è completamente situato sul fenomeno dell'innamoramento, perché durante i 13, 14, 15 anni c'è il risveglio di tutte quante le pulsionalità. In termini tecnici si chiamano queste cose qui cotte, ecco, quindi cioè, una persona perde la testa così per una persona dell'altro sesso, ordinariamente, ecco, adesso non voglio fare battute fuori luogo, ma perde proprio la testa però, cioè, nel senso che avvengono dei processi tipo l'idealizzazione, tipo la mitizzazione, per cui se non si frena farebbe follie, per questo che tante ragazzine di questi tempi si ritrovano poi inguaiate, perché il ragazzino di turno dice: ah sì, hai veramente perso la testa per me, bene, dimostramelo e dammi quella cosa. La ragazzina, fuori di sé per questo sentimento violento che sente, accetta, consente. Ecco, con le L'esito che poi, appena viene concessa questa cosa, si ritrova completamente da sola e si ritrova completamente lasciata, perché il maschietto perde ogni forma di stima, ha avuto quello che voleva e comincerà ad andare a cercare la stessa cosa da qualche altra parte. Questo, ragazzi, state attenti, perché quando parla un sacerdote generalmente parla sempre con cognizione di causa, come sempre mi raccomando. Quindi dico, ragazzi, voi non dovete mai dire ti amo, perché questa forma, diciamo così, tra virgolette, questo sì, di amore, in realtà non è amore, non è amore con la A maiuscola, perché l'innamoramento, la cotta, c'ha sempre come termine di riferimento l'io, non il tu. Si dice anche nel linguaggio, no? Io mi sono innamorato, quindi non è io ti amo, è molto diverso, Quindi questa forma di amore, che è indubbiamente un'esperienza che noi umanamente facciamo, è un amore, come dire, molto molto imperfetto, che va chiaramente certamente assunto, di cui bisogna prendere atto, ma che va anche, come dire, in qualche modo educato e ben gestito, no? E indirizzato verso il bene. Comunque, ha spiegato molto bene nella lettera di Benedetto XVI, Deus Caritas Est. Quindi attenzione, che gli adolescenti, se dicono ti amo, devono andarsi a confessare per un peccato contro l'ottavo comandamento, perché bisognerebbe cambiare una consonante mettendo una M al posto della I. Quindi non ti amo, ma mi amo, se uno volesse essere sincero. Ora facciamo una piccola pausa, ragazzi, che sono le 17, per recitare un'Ave Maria alla Madonna, chiedendole anche che mi aiuti, date le mie precarie oggi condizioni di salute bronchiale, ecco appunto, portare a termine la nostra conversazione odierna. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora, prima di concludere questa ulteriore considerazione che oggi stiamo facendo, cioè il fatto che la disciplina severa, ve lo dico subito, quindi penso che molti lo sappiamo, cattolica sulla purezza, serve a custodire un valore, a custodire, a permettere di poterne gustare la bellezza, che è quello dell'amore umano. E dopo aver cercato di stabilire la differenza che c'è tra l'innamoramento, sentimento e l'amore come scelta di volontà, ecco, prima di fare un passaggio ulteriore, vorrei citare una delle cose più belle che io abbia mai visto e sentito e che mi ha tanto colpito. Una frase pronunciata da una santa. Io ho un documentario che si trova tra l'altro in giro, viene diffuso da Luci dell'Est. Comunque, se qualcuno volesse vederlo, dovrebbe stare in giro o sul mio canale di Gloria TV o sul sito della parrocchia o sul mio canale YouTube, però è molto bello, basta che cercate Santa Giovanna Beretta Molla o Gianna Beretta Molla. A un certo punto si vede che questa donna, grande donna, no? Che ha avuto un lungo itinerario di discernimento, perché lei voleva, non era così sicura che la vocazione sua fosse il matrimonio, si è sposata molto tardi, si è fidanzata molto tardi. Ecco, si è fidanzata addirittura dopo che il fratello missionario, che lei voleva raggiungere, le disse: tu non devi venire da nessuna parte, tu prega al Signore che ti faccia trovare un marito, perché tu c'hai la vocazione al matrimonio. Appena conosce questo sant'uomo a sua volta, Pietro Molla, la prima lettera che gli scrisse, stupenda, veramente, io ho pianto la prima volta che ho visto alcune cose, perché pensavo, ma ci fossero anche oggi cose di questo genere. Sicuramente da qualche parte ci stanno, certamente, ahimè, sono diventate abbastanza una rarità. Sapete cosa scrisse Santa Giovanna Beretta Molla? Dimmi cosa devo fare per renderti felice. Ecco, proprio un'immagine meravigliosa di quello che è il senso dell'amore umano: spendersi perché la creatura che Dio ti ha posto a fianco sia felice grazie a te. È una cosa grossa. È una cosa bella, che poi Pietro Molla, che si vede nel documentario, che era ancora viva, dice: beh, certo, con una che ti scrive nella prima lettera queste cose qui, la prima cosa che ho pensato subito è stata: io questa me la sposo. Ci fa sopra una battutina, è ovvio, no, che sia così. Ecco, pensate che quando due persone si amano, non fanno altro che fare una gara di prevenzione reciproca nel rendersi l'uno servo santamente, chiaramente, servo della felicità dell'altro, così potremmo nominarla. Questa è la vocazione al matrimonio, e questa dà, come dire, veramente quando si vede una coppia, ce ne sta qualcuno di questo genere, ti riconcilia col mondo e con tutto, perché è davvero bello vedere questa cosa, perché è una piccola immagine in miniatura e addirittura della Santissima Trinità, come ci insegna San Paolo e come vedremo. Ora, qual è il problema? Che questa bellezza, come accennavamo e come sappiamo, è stata minata alla radice dal peccato originale, per cui noi sentiamo il desiderio di questo, ma ci scontriamo quotidianamente contro le nostre tendenze al basso, cioè contro una sorta di stravolgimento, d'accordo, dell'asse dei valori, per cui tutte le cose diventano strumenti per il soddisfacimento dei miei interessi, dei miei bisogni o dei miei piaceri. E questo accade anche nell'amore umano. Anzi, qui accade più e prima che nelle altre cose. È per questo che ci sono, come vedremo, già dalla prossima volta qualcosa sicuramente, tutta una serie di divieti e di paletti, per impedire che la colossale bugia del finto amore, ecco, o se si preferisce la gigantesca illusione del finto amore, diventi, come dire, nostro malgrado, ciò che guida le nostre azioni, lasciandoci con l'amaro in bocca, e ciò che quindi sembra contraddire ciò che tutti noi sentiamo nel profondo, è che soltanto se amiamo sinceramente, se siamo realmente amati, siamo felici. Ma se siamo amati sinceramente, se siamo realmente amati. Ecco. Quindi dobbiamo tenere presente questa cosa, che il rapporto tra un uomo e una donna, che nella mente di Dio è luogo, esperienza formidabile di amore e di vita, non dimentichiamolo, potrebbe diventare la tomba, altro che, dell'uno e dell'altro. Quindi non basta che un uomo e una donna stiano a fianco per poter vivere, per poter dire che questi stanno vivendo l'amore e il mistero dell'amore e il mistero della vita. Bisogna vedere come stanno a fianco l'uno all'altro. Come ci stanno nel momento in cui ci si trovano e come si sono preparati a questo momento, perché vedremo che c'è anche un prima che condiziona il poi. Ecco. Purtroppo molti rapporti a due oggi non sono più un donarsi totalmente fino ad essere una sola carne, vedremo tra poco, e molte volte, insomma, questo passo caro a Gesù, è citato da lui espressamente nel Vangelo, ripreso dal libro della Genesi, quando il Signore comandò ad Adamo e ad Eva di unirsi per crescere e moltiplicarsi diventando una carne sola. Quindi, spesso un uomo e una donna non stanno più insieme come dono totale che si sublima nell'essere una carne sola, con l'intento di cooperare. Vocazione altissima con Dio alla generazione e alla trasmissione della vita, ma molte volte si cade a livelli molto più bassi, che consistono semplicemente nell'usarsi, strumentalizzandosi per scopi bassi e brutali, rinnegando ed escludendo la vita o in via preventiva o peggio in via successiva, con l'orribile delitto dell'aborto contro cui abbiamo parlato nel quinto comandamento e contro cui, penso anche molti ascoltatori, abbiamo manifestato marciando domenica scorsa. Allora, penso che una cosa importante sia passare in rassegna anzitutto almeno alcuni passi significativi della Sacra Scrittura, perché non è raro sentir dire cose di questo genere. Chi l'ha detto? Vi faccio un pochino di domande che hanno fatto, che hanno rivolto anche a me qualche volta, anche tramite mail o tramite Facebook, diciamo, qualche giovanotto o giovanotta, diciamo, un po' carente da un punto di vista formativo, comincia a dire: chi l'ha detto che avere rapporti prematrimoniali è peccato? Sono invenzioni della Chiesa, nella Bibbia non c'è scritto niente di tutto questo. Ora, vedremo che nella Bibbia c'è scritto tutto su questo comandamento, proprio tutto, eh? Non c'è niente di questo comandamento che non ci sia scritto, basta semplicemente capire il significato tecnico di alcuni termini. Significato tecnico, basta aprire il vocabolario della lingua italiana e oltre che comprendere l'etimologia greca. Ecco, ma i peccati contro il sesto comandamento, ahimè, ahimè, è ovviamente ironico, nella Bibbia ci stanno scritti tutti. Quindi se uno, come dire, io a suo tempo, ahimè, e stavolta ahimè senza ironia, fui un grande contestatore, nel senso che negavo quando ero giovane, e negavo anche in maniera abbastanza accalorata, il fatto che i comportamenti, diciamo, sessuali, specialmente prima del matrimonio, potessero essere, costituire peccato. E devo dire che, sfortunatamente, non so se per ragioni di opportunità, spero, o per ragioni di incapacità, spero che non sia così, quando mi confrontavo, insomma, con qualche sacerdote, raramente c'era qualcuno che mi diceva: guarda, tu puoi pensare quello che vuoi. D'accordo, perché la nostra libertà, libertà di pensiero, per carità, è un dono della persona. C'è stato pure il Concilio Vaticano II che ha parlato della libertà di coscienza, per carità di Dio. D'accordo? Però un conto che tu pensi come ti pare, un conto che tu dici che quello che tu pensi è confortato dalla Bibbia, cioè nel senso che la Bibbia non dice nulla di contro a quello che tu dici, perché questo non è vero, questo qui. È che non è vero, qualcuno te lo deve dimostrare semplicemente prendendo un bel libretto che è la Bibbia e leggendolo vicino a te, come vorrei fare io adesso. Ecco. E tenendo quindi la cosiddetta morale sessuale cattolica, non è una sorta di invenzione di qualche vescovo o prete di non si sa quale oscura epoca passata, seguito oggi raramente da qualche ulteriore vescovo o prete un po' retrò, un po' demodé, un po' sessuofobo, questa è un'altra parola che circola in certi ambienti oggi, ma che non ha niente a che fare con quello che Dio vuole. Questo non è vero. Uno può anche ribellarsi, come dire, alla severità, ripeto, di alcuni precetti, ma non può assolutamente dire che queste cose sono inventate o non fondate, perché non è così. Ecco, io qui durante queste conversazioni non le leggerò tutte, ho scritto un libretto che forse potrebbe riandare in stampa tra un po' di tempo, che si chiama Sacramentum Magnum, dove ci sono veramente tutti i brani del Nuovo Testamento che parlano di questa materia. Ve ne leggo soltanto qualcuno e lo commentiamo, e penso che oggi possiamo poi fermarci con questa ulteriore, diciamo così, con questo ulteriore primo ingresso dentro questo comandamento e quasi ulteriore introduzione, diciamo così, a completamento di quanto visto nel primo incontro. Allora, anzitutto alcune lettere di San Paolo, poi ne vedremo anche una di San Giuda, apostolo, perché oltre che San Pietro, che anche lui ha scritto su questo argomento, c'è anche San Giuda. Diciamo che io ne ho scelte tra, mi pare che sono 12 o 13, per questo incontro 5 o 6, particolarmente significative, cioè dove emergono, diciamo come a macchia estensiva, diciamo così, in maniera complessiva, le principali condotte impure condannate dal Nuovo Testamento, quindi dalla Sacra Scrittura. Cominciamo con la prima lettera di San Paolo ai Corinzi, al capitolo 6, versetti 15-20, preceduti dal 13. Guardate, lapidariamente San Paolo esordisce così: fratelli, il corpo non è per l'impudicizia, primo termine tecnico, quindi l'impudicizia, ma per il Signore. Io prima ve lo leggo, poi facciamo un po' di decodificazione del linguaggio, eh. Dice, non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo e ne farò membra di una prostituta, non sia mai. Non sapete voi che chi si unisce alla prostituta forma con essa un solo corpo? I due saranno, è detto, un corpo solo, ma chi si unisce al Signore forma con lui un solo spirito. Fuggite la fornicazione. Col termine tecnico. Qualsiasi peccato l'uomo commetta è fuori del suo corpo, ma chi si dà alla fornicazione pecca contro il proprio corpo. E non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete da Dio e che non appartenete a voi stessi? Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Allora, due termini che compaiono tecnici: l'impudicizia e la fornicazione. Cominciamo dal secondo. Guardate che il secondo in greco è porneia, termine che oggi purtroppo nel XXI secolo capiamo subito abbastanza al volo di che cosa si tratta. La fornicazione, se aprite il vocabolario di lingua italiana, ecco, trovate scritto congiunzione carnale tra un uomo e una donna al di fuori del matrimonio. Quindi, quando due persone compiono ciò che due persone coniugati fanno per avere figli, si chiama fornicazione. Questo si può fare con una prostituta, come dice San Paolo, quindi avendo un rapporto occasionale e mercenario, ma si può avere anche senza soldi, quindi avendo un rapporto occasionale per diletto, non mercenario. O è la stessa cosa se si commette anche con chi io sono innamorato, quindi con chi è il mio fidanzato o la mia fidanzata. Cioè, qualunque sia la motivazione e le circostanze, se io mi unisco totalmente ad una persona al di fuori del matrimonio, commetto peccato di fornicazione. San Paolo amplia però lo spettro perché inserisce la fornicazione dentro il genere più ampio dell'impudicizia. Ecco, impudicizia è genere molto molto ampio che si deve tra l'altro distinguere da impurità, perché impudicizia vuol dire persona non pudica. Persona non pudica vuol dire persona che non ha il senso del pudore, e pudore è, sempre qui date a controllare la definizione, quel senso di riserbo e di vergogna che si deve avere nei confronti degli atti che in qualche modo mettono sotto esibizione pubblica, eccetera, eccetera, la nostra vita intima. Quindi è cosa molto molto molto grande. Per esempio, il pudore abbraccia anche dei comportamenti esterni, come per esempio le mode e come ci si veste, che vanno al di là degli atti singoli impuri. Capite? Quindi colloca la fornicazione dentro questo ampio genere. D'accordo? Passiamo alla prima lettera di San Paolo ai Tessalonicesi. Ancora, la volontà di Dio è la vostra santificazione. Siamo al quarto capitolo, versetti 3 e 7, se volete andarli a rileggere o a rimeditare. Che vi astegnate dalla impudicizia. Guardate, qui spiega che ciascuno sappia mantenere il proprio corpo, quindi vedete che cos'è l'impudicizia, qui lo spiega, con santità e rispetto, non come oggetto di passione e di libidine, come pagani che non conoscono Dio. Quindi il nostro corpo va tenuto, anzitutto rispettandolo. Rispettandolo, rispetto vuol dire dal latino respicere, guardarlo come cosa santa. Cioè, il tuo corpo, ha detto San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, è tempio dello Spirito Santo. È cosa che ti viene dal Padre Eterno. D'accordo? Ah, il nostro corpo, ragazzi, c'ha questa duplice possibilità: o sarà utilizzato per la gloria di Dio, punto e basta, cioè faremo un sacrificio a Dio di alcuni godimenti a certe condizioni lecito del corpo per offrirlo in sacrificio a Lui, oppure lo doneremo ad una persona, una, che è l'unica che ha il diritto di vederlo, di conoscerlo e di goderlo. Egli è per gli altri, io scherzo sempre con i fidanzati, i corsi prima di essere, semplicemente un mistero. Allora, se io chiaramente il mio corpo lo esibisco, lo espongo, lo ostento E guardate che non lo fanno soltanto le signorine oggi questo, lo fanno pure i maschi, che per certi aspetti stanno diventando più vanitosi e più ostentatori delle donne. Non lo sto trattando con rispetto né con santità. Primo, perché lo sto profanando. Il corpo è comunque sempre tempio dello Spirito Santo. E quando tu fai qualcosa di disordinato, di non corretto, nei confronti del proprio corpo, ecco, stai violando il tempio dello Spirito Santo, sempre. Secondo, se la tua vocazione è di donarlo ad una persona, tu stai rubando, d'accordo? Perché il tuo corpo non può essere, come dire, ostentato ai quattro venti. Appartiene alla persona che Dio avrà pensato per te e a nessun altro. Tu potrai dire ti amo a quella persona soltanto se sarai stato capace di conservare il tuo corpo puro da ogni sguardo disonesto, non soltanto da ogni atto cattivo. Capite quanto è grande poter dire in faccia ad una persona ti amo? Quanti sacrifici questo ha comportato? Questo non vuol dire che uno debba andare vestito in giro, state attenti, eh? Non vale né per i ragazzi né per le ragazze, cioè non bisogna andare in giro vestito come frati o come suore, persone che devono vivere nel mondo, però c'è modo e modo. Io già altre volte ho invitato a visitare una pagina Facebook, dato che tutti ci andate, che si chiama Femminina Modesta e Elegante. È un sito che viene dal Brasile. Mi hanno fatto amministratore anche a me, quindi io posso inserire foto, pubblicare post o commenti. Lì, questa praticamente è una pagina che si occupa di promuovere una nuova riscossa, ecco, della bellezza santa di noi cristiani. Cosa vuol dire bellezza santa? Vuol dire che voi ragazze che mi state ascoltando dovete vestirvi bene, non dovete vestirvi male, ma dovete vestirvi cristianamente bene. E cristianamente bene vuol dire che ci sia un abito che esalti la vostra femminilità, non forgiato per imitare in qualche modo la moda maschile. Che sia modesto, modesto significa che non provochi, quindi non voglia provocatoriamente mettere in risalto alcuni aspetti del corpo femminile che sono ovviamente provocanti. E elegante. Questo senza rinunciare all'eleganza, cioè alla bellezza, cioè senza quindi mortificare quella dimensione lecita, se non stravalica certi livelli, che è la cura del decoro e della bellezza esteriore, che non è di per sé stessa condannata dal Padre Eterno. Voi dite, le suore vivono un'altra dimensione, cioè le suore possono e devono, anzi, fare dei gesti di mortificazione più grande, compresi anche gli abiti molto, molto, molto castigati, diciamo così, che portano, ma non per una forma sterile di disprezzo del corpo, ma per una forma, come dire, di segno, cioè dal momento che io ho completamente rinunciato a questa dimensione per sublimare la vita, come dire, dello spirito e il rapporto interiore con il nostro Signore. E il rapporto puramente spirituale anche con tutti gli altri, ecco, allora io posso, anzi devo, come dire, a livello di segno, esagerare sotto questo punto di vista. Ecco, quindi quello però è un modello estremo che non può essere assunto da chi vive nel mondo copiandolo. Ecco, meno che non si tratti di una vergine consacrata. Sapete che oggi c'è l'ordo virginum, quindi uno può rimanere vergine e essere consacrato anche nel mondo, no? Però sempre, a mio parere, entro certi limiti e con certi schemi. Quindi San Paolo continua dicendo: pensa, sta parlando dell'impudicizia, non sta ancora parlando degli atti impuri. Ognuno sappia mantenere il proprio corpo con santità e rispetto, non come oggetto di passioni e di libidine. Quindi non come oggetto di passioni e di libidini. Quindi il nostro corpo non deve essere né utilizzato a livello personale, né ostentato per provocarle le passioni e la libidine, come i pagani che non conoscono Dio. Sentite ancora cosa dice San Paolo: che nessuno offenda e inganni in questa materia il proprio fratello, perché Perché il Signore è vindice di tutte queste cose, come già vi abbiamo detto e attestato. Cosa vuol dire vindice? Che se qualcuno offende, quindi cioè fa il contrario di quello che San Paolo sta dicendo, oppure inganna qualcuno, dice: no, ma non ti preoccupare, non c'è nessun problema, se ti vesti anche, se vai in giro mezzo nudo, stai tranquillo che non fa niente, va incontro alla vendetta di Dio. Non sono cose che sto dicendo io, il Signore è vindice di tutte queste cose, vuol dire che Dio lo punirà. Oggi mi è arrivato un post su Facebook, non so se mi sta sentendo o se mi sentirà chi me l'ha mandato, che dice: ma Don Leonardo, sai, ho sentito un sacco di prediche dove se i preti dicono che Dio non castiga, che è soltanto buono, usa misericordia. Dice: ma tu non puoi dire qualcosa. Dico: non gli ho ancora risposto, che non c'ho avuto tempo. Io gli risponderò, dico: guarda, già in altre circostanze io sono intervenuto su questa tematica, che va certamente ben compresa, ma che va certamente affermata. C'è questa affermazione della Sacra Scrittura. Quindi, se tu su alcune materie provochi la divina giustizia, te la ritrovi davanti. Lo dice San Paolo, non lo dico io, non posso dinanzi a questa lettura fare finta di niente e dire: ah no, ma non fa niente, tanto Dio è buono e queste cose non fa. Perché San Paolo dice il contrario. Quando in chiesa si legge questa scrittura, non si dice parola di San Paolo, né si dice parola del lettore, parola di Fabrizio, parola di Nicola, parola di Giulia, cioè di quello che la legge. Si dice alla fine parola di Dio. E continua San Paolo: Dio non ci ha chiamati all'impurità, ma alla santificazione. Altro termine tecnico. Adesso vedremo, eh. Perciò chi disprezza queste norme non disprezza un uomo, ma Dio stesso che vi dona il suo Santo Spirito. Ora, l'impurità, se vogliamo, è termine ancora più ampio di impudicizia, perché l'impurità, come dire, è il macrogenere che contiene tutti i peccati contro la purezza, compresi quelli contro il pudore. Quindi, perché si pecca contro la purezza non soltanto compiendo degli atti balordi, ma anche ostentando il proprio corpo e provocando con il proprio corpo, anche a prescindere dagli atti che siano compiuti. Perché? Perché l'ostentazione e la provocazione stimola lo sguardo, come abbiamo visto anche per proprio di oggi. Lo sguardo stimola il pensiero e poi il pensiero stimola l'azione. E poi il pensiero stimola l'azione. Vi ricordate, ragazzi, non vorrei tutto quel macello che successe per quel poro prete toscano che è andato a finire sui giornali, sulle cose, perché aveva attaccato un. Allora, probabilmente questo povero confratello è stato un pochino imprudente, perché su queste tematiche bisogna stare attenti. Ecco, starò attento anch'io adesso che parlo. Allora, questo aveva detto una cosa molto semplice: che ogni forma di violenza sulla donna è da condannare sempre, dovunque e comunque, e che non esiste nessun tipo di giustificazione verso qualunque tipo di atto odioso compiuto verso il genere femminile. E questa è anche la dottrina cattolica. Cioè, se tu sei provocato, non è che sei giustificato. Cioè, se tu meni una persona perché quello ti ha provocato, supponiamo che tu stai fermo a un semaforo, c'è uno che ti manda a quel paese e tu scendi e lo gonfi, non è che tu dici: ah, hai fatto bene a gonfiarlo, hai fatto male, perché alla provocazione, se sei santo, reagisci non rispondendo, d'accordo? Però, da un punto di vista morale, un conto che tu prendi una persona e l'ammazzi de botte è così. Un conto che tu reagisci sbagliando e comunque peccando ad una provocazione. È diverso. Allora, questo dice: fermo restando tutte queste cose, certamente se le mode di oggi sono una continua provocazione, non dobbiamo stupirci che poi alcuni animali, cioè uomini che si lasciano prendere dagli istinti animaleschi che dovrebbero dominare, fanno delle cose turche, che sono da condannare, che bisogna metterli in galera, eccetera, eccetera. Cioè, è successo, apri di cielo. Cioè, questo va a giustificare le violenze sessuali. Ma non è vero questo qui, d'accordo? Però è vero che la moda in vereconda è di per sé stesso peccato, perché costituisce una provocazione oggettiva. Per cui, se tu vivi in un mondo di santi che nessuno la raccoglie, tanto meglio, ma questo non toglie che tu comunque davanti a Dio dovrai rispondere di peccato di impudicizia. Sto parlando da un punto di vista di morale cattolica. Non so se sono riuscito a spiegarmi. Facciamo in tempo a finirli oggi, riprenderemo la volta prossima. Vediamo il numero 3, un'altra lettera di San Paolo, che è la lettera ai Galati, dove tornano altri termini tecnici. Un, due vengono ribaditi e un altro nuovo compare. È il famoso elenco delle opere della carne, a cui poi si fa seguito, grazie a Dio, anche le opere dello spirito. Ricordate la seconda lettura di domenica scorsa, Pentecoste, no? L'uomo carnale e l'uomo spirituale. Una delle omelie che ho fatto l'ho proprio impostata sulla differenza che c'è tra chi vive secondo la carne e chi vive secondo lo spirito, che non è soltanto secondo i peccati impuri. Adesso lo sentiremo l'elenco qui, no? Cito Galati 5, versetti 19 e 21. Del resto le opere della carne sono ben note: fornicazione, e questo lo già conosciamo, impurità, anche questo lo conosciamo, libertinaggio, ecco un termine nuovo, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze. Questi non sono peccati impuri, tutta questa sfilza qui. Sono opere della carne, ma non sono peccati impuri. Orge e cose del genere. San Paolo continua: circa queste cose vi preavviso, come già ho detto, che chi le compie non erediterà il regno di Dio. Non erediterà il regno di Dio, capite cosa vuol dire, no? Se non eredita il regno di Dio, eredita qualche altro regno, che è il regno del nemico di Dio. Quindi vuol dire, detto in termini eleganti, che chi fa queste cose va all'inferno. Quindi che tutti i peccati che ha nominato sono tutti peccati nella specie mortali. Alla fornicazione e all'impurità si aggiungono orge e cose del genere. Tutti quanti sappiamo cosa sono le orge, spero, quindi che mi urta anche soltanto doverla nominare, una cosa così aberrante. E poi c'è il libertinaggio però anche. Il libertinaggio così diffuso. Il libertinaggio è l'esasperazione, è una, come dire, è una brutta degenerazione della libertà, cioè è la libertà in campo sessuale, esattamente quella che hanno sbandierato dal 1968 in poi. Quindi è il gestire i comportamenti relativi a questa materia in termini completamente autoreferenziali, quindi svincolandosi completamente dalla legge di Dio. Anche questo, cioè in se stesso, quindi come stile di pensiero, quindi come movimento filosofico, ci sono stati anche filosofi libertini e correnti di pensiero di questo genere, è già di per se stesso inviso al Padre Eterno, perché il Padre Eterno è per la libertà, santamente e rettamente intesa, non per il libertinaggio. Sono le 17:31 e quindi è bene che per oggi ci fermiamo. Non sono riuscito a terminare, riprendiamo la prossima volta da qui, terminando, ecco, la rassegna dei brani biblici del Nuovo Testamento che parlano di questa materia, e poi ricominciando una trattazione sistematica dei peccati contro il sesto comandamento. Vi benedico tutti, vi auguro una santa settimana. Ave Maria.